Ma capita a nessuno, però che basta la macchina. Ma gli altri sono in giro, a volte aspettano che sia vero, no? Già lo so, già. Ma occhio che molti di questi anziani hanno fatto pugilato, arti marziali. Chi non rompia la sua di cattoli a vedere i cacciati, la gente che ancora si lamenta a me, di cui ancora forse me. Sai cosa abbiamo fatto? Un amico che abbiamo in comune con un'altra scuola. E lavora in Germania. E da poco è salito, è venuto qua per fare le ferie di Natale e stava arrivando in Germania. Poi ha messo un paesino in Alta Italia che praticamente c'era la neve, si è fermato per vederla. Fatta la macchina, lui si fa un specchietto. Lui c'ha un BMW di quelli belli, di quelle BMW grosse. E praticamente lui lavora la BMW in Germania. Fatto sta che cosa è successo? Ne ha buttato la placca che c'è dietro lo specchietto. Lui è sceso per la coda, la sono andati in tre, gli hanno cucciuto la giuccia, gli hanno preso tutti i soldi che ci aveva, la catenina d'oro, l'oro luce, tutto derubato. Gente delinquente, per carità. Ma dice che sono zingari che l'ho fatto, un incontinente. Hai cacciato un giugno, ribassano macchine. Sai cosa è? Queste persone sono fortunate che dietro queste persone anziane non c'è un figlio, magari uno deve fare pugilato, uno per due, uno muore, ma lì dietro il padre, il cartello di cui ne va di passare la gana, vi credi? Vabbè, ma qualsiasi persona giovane, anche se non ha fatto il pugilato, mi dà molto di luce per cui la scappa. Se non sa usare la mano, mi dà lo luce. Vabbè, per modo di dire, no, capito? Sono sempre fortunati, ma secondo me lo sanno che sono persone sole, capito già? Lo sanno. Allora si informano. Allora c'era un periodo che di fronte a casa mia, quei gradini che ci sono, stava sempre seduta questa zingara con la bambina piccola. E io ho detto, ma qua che cosa ci fai? Io abito qua, dove abiti qua? Dove? Non abiti qua, tu sei al campo. Ti porto dove perché ti conosco. Beh, una serie di furti in poco tempo c'è stata, una serie di furti di appartamento. Per carità, sono bravi quelli rubando. Si studiano tutto l'andato, capito? Si studiano tutto. Poi i piccolini miei sono bravi. Sì, non lo sai cosa facevo lì, controllavo i movimenti, magari c'era gente di gattiduro, ha controllato i movimenti, poi l'ha detto ai maschi sicuramente, vanno anche le donne con carro uguale perché in casa di mia sorella è andata una nonna. Praticamente mia nipote era a letto, c'era il cane Julie, che è uno Yorkshire che abbaiava e andava verso di lei e diceva lasciami dormire, si chiamava Julie, e si è morto. Beh, alla fine l'ha fatta alzare, si è alzato e ha trovato questa zingara con un coltello da cucina in mano. Si è messa a gridare aiuto, aiuto, questa è andata a scappare, il cane il cazzo la prendeva a morsi alle gambe, dice che l'ha stata muscicata. Beh, fatto sta che nel frattempo lì ha chiamato i carabinieri per avvisare. I carabinieri sono arrivati, l'hanno beccata nell'altro portone, non si è andata per presa, nell'altro portone ha preso un altro appartamento. Sono un bel bastardo di soldi, per carità. Ma io l'ho messo diversamente, se tu di cosa del genere, o Giulia, lascia perdere, che c'è arriva di tutto, io non mi metto a gridare, arriva di tutto la casa, mobili, cadri, di tutto, io si tacciappo così e per farti male, se ti trovo dentro casa mia con l'arnese in mano, e rubando, cioè, è cosa che io ti faccio male. Non sto lì a ti darla molto, ti devo fare male. E la vuoi dalla ragione di battere il tutto, poi non vedo ragione così, che la giustizia. La giustizia, siamo i carabinieri, non vanno a fare la verità. Cioè, come ha fatto mia nipote? Mia nipote ha chiamato i carabinieri, l'hanno beccata, l'hanno un portone che stava aprendo, già una porta. non abbiamo capito che è legittima difesa di Bone, quattro palme di faccia in culo, mezzo Bone, perché se io ti trovo col coltello in mano in casa mia io ti faccio male. Poi può essere la giustizia, le cose che vuoi, non me ne frega niente. Io dicevo il deggio, poi non ho mezzi termini. Io se ti trovo in quelle condizioni dentro il mio appartamento e dicevi deggio, poi fai quello che vuoi, ecco. Ma perché io devo passare cosa? Mi ha aggredito, cosa vuoi da me? Vai, escimi dal guru, tu la giustizia e quanto ce n'è. Io la penso così, se io ti trovo ti posso male, tranquilla, al 100%, Sto guardando roba, vi sto ascoltando, dai. Casino, io a casa sua posso stare tranquillo. Poi dico anche questo, se il cazzo vuoi, alla fine se io ci viene poi a rubare qua, romperci le palle. Ma lo sai che uno l'ha intervistato, ha detto io rubo. Cosa ha fatto lui per io rubo? Senta, io ti giuro, io la vedo così, io non guardo nessuno in faccia. Io se vieni mi punti il coltello e cose, vuol dire che è il giorno che io ne faccio male qualcuno, perché io il coltello per me è una minaccia, Poi può essere la polizia che vuole, a me non mi ne ha tutti nulla. Fate tutto, bisogna avere se la ciappia ancora in casa, perché non esci dalla porta, esci dallo balcone. Chi si è visto, mia. A me non me la fatti nulla. Polizia non bisogna chiamarne mai, bisogna buttarli fuori dalla finestra e chiudere la finestra. E appunto, li facciamo conoscere la seconda porta di casa. E poi sono caduti cercando di salire per rubare. Appunto. Oh, chiudi la finestra e mu, e ti vai ragazzi duri. A chi si chiama la polizia restano a te. Ciao, e chi lo sa, e cosa dice Gueo? No, perché tanto se prendo, magari voi ti danno la ragione, perché violazione di cose, eccetera, eccetera. Io sono sempre casini, invece due biglietti con degli osso, poi ho finito, non ho messo niente, li fai male, lo grebbe, non ho messo niente, chiudi tutto, io non so niente. Come se chi tu baciori, no? Che si è trovato la casa occupata, questo qui, e c'era una famiglia di zingari dentro, e io non poteva più entrarci, non mi ha chiamato polizia, no? È andata sul Silleri, ha chiamato 5 o 6 amici, sono andati, erano ridotti sanguroni, tutti all'ospedale, via. E poi nessuno sapeva niente. Oh no, in chivi da massa ne non ti pagano e ti danno in pasta ai maiali, così manco le ossa trovano più. Ma guarda, è l'unica cosa, perché tanto chi c'è giustizia, poi la bibita danno la ragione a te e me. Dopo che farebbero stessi e che d'altro, invece tu entri, li ammazzi a colpi, entri a casa e fai quello che devi fare. Se ti devo entrare dentro tu non sei nulla. E dici che tu vieni passi di vacanze buruetti, che ieri pure viene il diritto di passi di vacanze e l'hanno occupato la casa. Hai tu povaraccio, no? Cazzo! Tutti sanguroni a ripidari, sono finiti. Maci, femmini, piccini, hanno incultato tutti. Sono andati in corsetti, che diventi pastori, vedi amprusi, e l'hanno incultato qui la sussa, manco tre hanno accusato. Paolo, al che c'è a casa non può andare più a occuparla. E poi su sabbia nuda. No, polizia non ha chiamato, dicono. Se non li tagavano i trento, diciamo per la polizia, li tagavano i trento, e tu bisogna la casa che sono passati. Comenti tutti gli incontinenti chiamare la polizia. La polizia li fa rimanere dentro, perché non possono fare nulla, capito? Allora, infatti è tu vi trasusa a cazzo manco treno, scusate, tutti all'ospedale, a tutti hanno picchiato forte, e li hanno buttati fuori. Hai fatto bene. Ma come con l'anziano, con chi la sei chiamata a comporato, perché non sono appena, non ho comporato, sono attaccato e l'abbiamo occupato, l'abbiamo occupato la casa, mi sa. E ancora sotto, c'è questo, questa casa non l'avevamo ancora tornata, capito? Wow. Non c'è altra cosa da fare, ti va rimasti due, entri con qualche parente, con qualcuno, pure con un fucile in mano e fai quello che vuoi fare. Verrai, verrai che non entrerai più in chive, te lo dico io, tanto andare col buonismo no, non comporta niente, non ti preoccupare, fai quello che vuoi fare e poi ci risolvono le cose. Beh, io non so niente, non so nulla, ciao a tutti, arrivederci. Non ho visto niente, no. Poi sono anche mezzo sordo. Avanti, Cristian. Cosa c'hai tu a metà prezzo? Luis, non ho capito. Cosa hai detto, Cristian, che no? Ah, va bene, possiamo parlare. Dire che cosa di clandestino, e possiamo parlare. Andiamo bene, andiamo. Grazie. Andiamo bene, andiamo. Ma perché sei così basso? Dove sei? Ma sei in campagna sei? Ah, ecco perché sei così basso. Vabbè, io sono a zona. Se ti poco bambù nella strada ti tengo voce. Perché non ti metti la testa qui? Gappa gappa. Piano piano va. A me stai dicendo? Gappa. Ma c'è l'ecombe alto c'hai, eh? Adesso va un po' meglio, se no non riesco a capirti cosa stai dicendo. Adesso è migliorato. Gappa che è migliorato, cosa mi hai detto? Che se non è la sera la sera e apparati seri. Apparati seri? La casa, sì. Teniamo anche la parte di luce in macchina, cioè le cose di fuori. Andiamo, beh, dai. E che... sentivo questo ecco, caro, non riuscivo a capirti cosa stavi dicendo. Non è tanto per il segnale non è alto. Però chi c'è ecco che non riusci a comprendere. Come ti arrivo lì in campagna, bene? Sempre forte. Andiamo, vabbè. Ci sono, sì, ciao qui. Sto in giro, io sono andato in giro e morirò in giro. Una delizia, sì. Una delizia più cavolo, era sempre in giro. E la della tromba? Sarebbe smattito, se capisci di dici, sai come ti ha detto, mi sta bene a calmarti, ma dite muri e buh. E cosa è successo? No, quando c'era la città, hanno picchiato il video, ma hanno picchiato questa signora, è scesa a buttarci la bombetta, è scesa senza la mascherina e l'hanno fermata, le ho chiesto i documenti, non ce li aveva, per il valice l'ha facciata la testa, aspetti che riporto io i documenti, sceso giù, tutto gatto, hanno cominciato a fare il verbale, dice, ma che sta facendo il verbale? Lei non ci interessi, non so che cosa, l'hanno risposto male. Lui si è alterata, l'hanno preso, l'hanno picchiato, l'hanno preso a calci, a pugni e cose, l'hanno riportato a giù. Già, no, già li conosco, li porto la bombola quelli lì, non so che chi sono molto bene, a me viene voluto. mi ha aggrasso la faccia, come te l'abbia fatto? Allora, guarda, io se mi parli calmo, sono calmo e gentile, se mi alzi le mani divento violento, ma proprio a livelli, non me ne frega niente chi c'è davanti, sicuro chi sa giusta, chi si gatto sta faccia che non è manco idea qua. Ora, ora, ora, ora, no, non rispetto nessuno, perché tu finché sei, me lo dici con tranquillità e cosa, io ci sto, se mi alzi le mani divento cattivo. Cazzo, mi trovate un bacio di tempate di culo. Ma erano 4-5, mi non era solo. Erano in 4-5, da quanto posso dire. Poi questa signora l'ha filmato, ha detto, non si preoccupi perché ho filmato tutto io, beh, l'hanno denunciata perché non poteva filmare. No, il base battimentale non è così, il base battimentale è sbagliato, sono cazzi tuoi. Non è così, no. Non è mai tu di. Ehi, 4 o 5, adacca sotto la faccia, come ti dice, ne? Adacca 4 e 5. Mi che un giorno io ho avuto uno scontro, mi con chi si va a usciare. Cioè, ho un carabiniero, sai come te l'ha fatto il frisciato? Perché se ne vuoi sapere una, se ho anche il testimone te lo posso dire. L'ho fatto stare in crisi, l'ho fatto frisciare in terra, da un mancantissimo, me. Devi stare attento, me. Cioè, quella storia no, pochi la sanno, te la posso raccontare cosa ho fatto. Avevo quei coltellini per tagliare il tubo io, infatti non me ne ho più messo, dalla volta non mi ho più messo coltellino in tasca, dalla volta che è successo questo fatto. Che mi stava a tagliare un tubo di rugas, e mi ha pigliato, mi ha perseguito, che mi ha ciappato ghiccio. E tu cosa ha fatto? Me la bigliando e ho detto no, quello è il mio. Gli ho aperto la mano, gli ho tracciato da mano e poi l'ho trascinato lì. E tu grazie cudente, me cose io l'ho trascinato per tutto il pezzo della piazza. Poi il giorno è successo un casino, cioè proprio. E l'ha giocato pure due cazzate al braccio, no? Io sono matto, mica, non mi incazzo divento una bestia. Ma non è successo questo assurdo, non capitavi più. Allora, che fa botte questo stesso? Ma qual era quello che poi ti aveva tirato l'occhiata, eccetera, eccetera? Ho capito, mi ha contagiato, manco male, ma uso con dosso, poi. Ma l'ho anche troppo rispettato, perché io quando mi arrabbio poi divento un animale. L'ho anche molto rispettato. Perché se gli tiravo lo schiaffo, pazia Lavini della Savoia, cioè ci ricudia un ciaffo. Quello che è successo a Romonte, succedeva lì anche, non ti preoccupare. Nisci alla mandibola, ti mandavano a liquidare. No, io sono una persona buona e brava, però quando mi alzano le crisi divento cattivo. Allora io sapevo che tu stavi andando a buttare la moto su stanno di cinque. No, questa è un'altra storia forse. Questa forse era di cose, che era di cultura monte tra pittorra. Sotto i chimbi erano che stavano pensando, no? Allora, te vegani cicco che vegani. No, io non rompo le scatole a nessuno, ma quando mi incazzo divento terribile. Cioè divento, esco fuori dal seminato, meno, anche pericoloso. Lascia perdere, no? Cioè non è che lo gioco di tendi gusti, divento tutto diverso. Però per carabinieri c'hanno i mandarini, mi occhio, e dico purtroppo i mandarini che fanno svenire si carica già in macchina, ci mettono poco qui. Sì, ma prima lo devi venire qua. Gusci. Prima lo devono fare. Che se cazzo vuoi a farlo? Non te lo spostano da lontano, ti arriva in faccia, boh, sei buttito, cosa fai? Nulla. Sei fregato. Ti ho detto che abbiamo avuto pure uno scontro, la voce del casino a Santa Maria di Pisa. Non me ne hanno incontrato un colpo, io manco male balle. Sei esagerato. Ciappa, l'ha già pigliato lo manganello, una balsa del manganello, non ti preoccupare. Ma se me l'ha incontrato un'unica barata puro. Se te lo tira la roba, vieni subito, perché c'è il cervello e tu vieni. Ci sono quelli che ti però che io conosco l'indirizzo di casa. La finanza ti arresta a te. Che è avanti? Chi è che stava parlando? Cappa. Oh, ah, sono fuori dai guai qua, perché no, non voglio problemi, non voglio casini questo periodo, perché ho i fatti miei. Ma bisogna sempre distare, tu, bisogna sempre distare queste cose, è meglio che non è succeda. Gloria, è casino, se interviene la giustizia da qui, ti rubini la pedina penale, che c'è quell'altro. No, conviene perché anche io c'ho, sono molto, cioè, se mi fai male ti faccio male, cioè, sono una persona un po' a chissà maniera, cioè, non lascia perdere. Vabbè, avanti, tu cosa fai? Picchiare? No, io mi faccio picchiare. Ah, così non ti può tirare male, così? Per forza, lo faccio picchiare, un po', ma sto zitto, lo faccio picchiare. Allora, è successa una cosa sotto casa, c'è un tipo, questo uomo grande, un cristiano, ma grosso, alto, è sceso in questa bottiglia di mirto, mezzo vuota, e con questa valigetta in mano. E tempo fa, questo è stato, fatto sta che verso le 2 di mattina, adesso ci ha messo a bagliare, sono andato a vedere se la stanno un marchetto. E praticamente questo qui è entrato, siccome quelli del locale che c'è sotto a casa, dopo che finiscono di lavorare, stanno con gli amici, furi e cose, non è stato. E questo qui vuole fare roba da bere, l'hanno visto che era cotto, gli hanno detto che non ce n'era da bere. E questo qui ha preso a bucci la padrona del locale, eccetera, eccetera. E un marito ha bisogno della tazza della maglietta, e questo è stato un avvertimento. La prossima volta potrà pensi. E questo qui ha preso, si è incazzato, ha preso a pugni le macchine, è dato che ha mancato, un casino ha fatto. Sono chiamati i carabinieri, cazzo, per poco non lo mettono a setto, mentre stava passando, prima di venire i carabinieri con la valigetta che c'aveva, stava passando una macchina, ha telefonato, cazzo, si è aperta questa valigetta, c'ha delle fotografie dei figli, della moglie. Sicuramente c'era la struttura di casa ed era in crisi. Beh, fatto sta che arriva la pattuglia dei carabinieri, camminando con i lampeggianti, lui si è buttato in mezzo a strada, per poco non lo vedessi che c'è. Poi lo prendono e gli dicono, vabbè, cosa stai combinando? Cosa stai combinando? Dico, niente, non mi voglio dare da bere, questo e quell'altro. No, non è vero, tu hai preso la parolaccia a mia moglie, questo e quell'altro, ti ha detto lui. Un casino, insomma, non è arrivato lui, ma che preso ti devi cavare, ci dici in macchina. E lui ha preso di lavare i carabinieri, ha detto, allora adesso le cose cambiano, l'ha ributto di manetti e ti hanno delegato in macchina. A un certo punto fa, voglio da bere. Cazzo, richiede una bottiglia d'acqua, quella del locale, cazzo, quello lì gli porta l'acqua, se beve l'acqua, fa finta di berla, poi il carabinieri ha detto, è finito, dammi la bottiglia. Cazzo, prima del combattere sul finestrino gli ha spuntato l'acqua in faccia al carabinieri. Yes, va, per carità. Poi questo è uscito sul giornale, è una persona toccata, una persona che è conosciuta, fa mostre di quadri, di cose, è un professore rinomato. Poi sai, a questa gente non gli fanno niente, ma se fa una gazzata ti segnala ai gatambuti. E infatti, questo qui è uscito sul giornale, faceva delle, aveva una galleria di quadri, di cose, di pittura, era un professore d'arte, insomma, una persona conosciuta. Purtroppo. Non è a casino, non si è messo a bagliare, non si è bucato, si è messo a bagliare, e veniva, come per dirmi, vieni a vedere cosa c'è lì, e veniva, andavo verso la finestra, dopo ho detto, ma vieni a bagliare, allora mi sono andato, cosa c'è lì? Io ho fatto questa scusa, questo qui prende le macchine, mi ha aggredito, questo qui della macchina non si è manco fermato, si è tirato la valigia mentre passava, non mi stava luce, questo è tirato la valigia, la macchina non si è manco fermato. Casino, c'è gente quella di capo, non li ha fuggito nulla. aspetta un attimino che c'è una buonasera che si sottopone. Avanti la buonasera. Ciao Giovanni, ben sentito, va. Non so se loro ti sentono, io ti sento a Santiago 4. Luca, lo senti a Giovanni la Plata? No. Luca non ti sente. Tu lo senti anche? Sì, io no, mi muove appena lo sniper mi muove. No, proprio non riesco a sentirlo, forse lui sente a noi però. Giovanni, senti allora. Solo io ti sento qua. Ciao noi. Solo io ti sento. Anche io, basso ma lo sento. Ciao Tino, e vabbè, tu sei nella zona sua. Sei in direzione. Allora, buonasera a tutti. Ciao Tino, ciao, ben sentito, dai. Giovanni si deve attrezzare, non è che Giovanni. Oh Dio. Meglio, ciao a tutti, ciao Giovanni, mi ascolti a me. Allora, dai. Vabbè, interessante sentirsi, dai. Se fa qualche cosa magari te la metti in casa, ma un'antenna che costa anche poco, ce ne sono, c'è quella che c'ha Franco California, che costa poco e batte un bel antenna, ma bella, sembra un parafulmine, piccolina e funge un bel. Che antenna è? Non me lo ricordo come si chiama, ma a vederla sembrava un giocattolo, cioè, quando l'abbiamo piazzata sembrava un giocattolino, tipo un parafulmine, ce l'ha presente. Piazzata va benissimo, da tutte le parti c'è bene. È della Sigma, ne. Ah, provo a vedere se andava meglio metterla nell'altro, dove, nel container, là. Sì, è una bella circostanza, se non rimane piccola, la pizza non rimane ingombrata. È la cosa, è come si dice, la Venom. Ah, è la Venom. Della Sigma, della stessa azienda della Manfa fa. No, aspetta che sto facendo il compito e veniamo da. Ma cavolo è? C'è un casino qua a casa. Quella con i radiali piccoli. Sì, la Venom. Scappa. Vediamo un attimino. C'è un casino nero che esco. Poi raccompiti per le varie. Una cosa al caldo neanche. Cos'è? Una cosa al caldo. 58 euro cosa. Allora, com'era? Venom? Sì, ciao Tino, Venom. Ciao. Nella Sigma, se non sbaglio. Mi sa di sì. Qui si è andata a mola. Sigma, cosa? 58 euro. Cioè, radiali piccoli, ciao. Cappa, è bellina come antenna, Sicuramente avrà la carica. C'ho il computer un po' lento. È un'antenna e non dà, è stazionale di nulla. Uno stazionale si toccava nemmeno. Sì, l'antenna aveva tre radiali per caso. Sì, 41 euro e 66, dai. No, circa 49 euro e 86, perché il prezzo era... in euro è 49 euro. Non è buona, spinge bene. No, il mio problema è che io non è che la posso alzare tantissimo sopra il container, capito? Quindi rimetto un palo e sarà all'incirca 50 cm dal tetto. Questa è anche molto leggera, è come la mia. Come la mia Ringo, è leggera. Se tu non mi l'hai fatto di potenza tiene, però già è buona, cioè. Però per la Sigma non ha mai fatto mondezza mia, alla fin fine, anche la Mantova, che la Mantova durano anni sul tetto, non si di mai niente. Ehi, Gianni, riprendi, Gianni, da Platta, Gianni di Platta. Ehi, un attimo solo che c'è facendo di qua. Ma tu non sei a Platta Nuova, cosa parli? Perché la stagione di Platta? Io non lo sento, no? No? Vabbè, voi siete massi piccoli e neri. Purtroppo dentro città versano... A me mi muove appena lo smitter. Dentro città sicuramente non arriva questo segnale. Già arrivi 4 a Edo. Non so a te quanto ti arriva, sicuramente in un posto dove non ci può arrivare, dai. No, se non ci ho parcheggiato io, non c'è, la rotazione non ha avuto i buddi, io non lo sento, ma uno degli spunti. Sono la tua della Buti Buti. Ah, della Buti Buti. Non so neanche 9:20. Sì. Invece Giovanni mi arriva quasi 8. Prova Giovanni. Anzi, Santiago 9. Però la radio è molto bassa, per il segnale che hai. Ci vuole un preampli. Ci vuole un po' più di radio, perché il segnale è buono, però radio non c'è. E a Sassari, diciamo, io sono a 3 km dalla Preolce, riescono a non sentirti. Va bene. E che radio stai utilizzando? È modificato poco, però. 120 cani? Solo. Solo che fanno 40, 40 e 40. Comunque. Andare. E io lì quanto sto arrivando? 8:30, 9, solo. Tu devi guardare lo smitter, Guarda un attimino. Mi stai calando lo smitter? Cos'è, Chris? Ti piace questa radio? Mi stai calando lo smitter digitale. Vabbè, sono appena 200, Sarebbe bellissimo, Fuglia, cioè... No, voglio fare una prova, a parte gli scherzi. Sì, no. Vediamo un attimino se riesco a ricordare. È freddo, l'ho appena acceso. Voglio fare una prova. Mi sono detto, a metà strada, va... E vicino a Platalona a vedere... se lo sente ora adesso siamo quasi a 400 watt e però punta ai 500, prova Lugariello. Sono qua ti sto sento qua, sono qua, vorrei scendere a Platamona. Sì, stiamo lasciando a Platamona pianto lui Gianni, doppio rumo, non c'è Natalino, ok, chi c'era? Boh, non mi ricordo. Io. Mi senti adesso? Io ti ascolto, ok, mi senti? Non ti sento, tu non mi senti bene? Adesso sì, segnale quasi 3, radio 4. Sono solo due di butte adesso, c'è la pedola. Ti ascolto, non c'è problema. Papà, qua c'è Santiago, sì, va benissimo. E chi è che sta sbratterando? Addirittura ti sbrattero, cavolo, una potenza è... Ma perché eri in un altro canale? Sono tu vedi? No, boh, il capo che è batte in pressa, no, era qualcun altro sicuramente. No, ero io. Aspetta, di qua. Stavo attendo a Gigi, e lasciamo scaldare, e ci arrivi. Ehi, a dove sei arrivato? Eccolo qua. Ci sei andato qui. Salve, c'è Michele, poi vado a tartuglia. Adesso c'è Michele una volta. Vediamo che ti sento ancora. Ancora qua sei Santiago 9, No, qua sei 2, sì. In questo passaggio, mi senti tu a me? Ehi, a cappa, vabbè, per l'antenna che hai già va bene. Uova. Sì, da tu che ti ha fatto in massa. Platamo! Cappa, dai. Guarda ora, vedere. Come ti sto arrivando ora. 1, 2, 3, prova la cipolla. Ma lo senti, Crio? Ma se sei vicino. Prova, sì. Santiago, sì, 7, modulati. Prova, Gianni. Prova, 3. E qua, Cristian. Santiago, 3, con questi... Dove sei adesso? Dove sei andato, Giovanni? Mi sentite? Gianni, ci sei? Sì, mi sentite voi adesso? Noi sì. Ehi, a cappa, dai. Sto facendo scaldare un po' la situazione qua, Santiago 5, sì, modulati. Oh, mi sentite, sì? Aspetta, oggi qua arriva di botto. Gianni. Sto uscendo, sì. Sì. Sempre il solito. C'ho più QRM. Prova un po', 1, 2, 3, prova. Sì, sei sempre uguale. Ok. È capparecchio di graziato, sarà. Cristian, mi ascolti? Dove sei? Cava cava, va bene, no? Deve sapere che mi sento. Attento Gianni, mi ascolti? Cambio. Forte chiasso. Avanti, ti ascolto anche io. Dove sei, Fred? In campagna già, mi ascoltate, sì. Ma cosa sei, con la tela fissa? Con la macchina, con la termina della macchina. Rimpiazzato. Cappa, ho fatto un po' di... l'ho sistemato bene, l'ho pisciato bene, ho fatto un lavoretto di lusso, là. Cappa, cappa. Via. Già va bene, già va bene. Uiuia, che c'è qua? Che intanto siamo c'è Luca, Tino, io, Giovanni Pratamona, Cristian e via dicendo. Cappa, dai, saluto tutti cordialmente, siete tre, dai. Cappa, dove sei arrivato, bravo? Campagna tu. Non ho capito cosa è. Ho detto che sono all'uscita di campagna. Cappa, Santiago Roma e Radio 5 a bomba, Cara, chi c'è che pone della portante? Portante? Qualcuno che non è uscito probabilmente. Avanti, chi sei? Non sei uscito di portante. Controlla qualche cosa. Che forte è qua. Franco, baccioni, baccioni. No, buonasera, mi ascolti, sì. Sì, a voi, approvo, Franco Rix, qua c'è. C'è un casino nero qua. Dai, riprendo più tardi, ciao. Ciao, sì, ciao, ciao. Gappa, gappa. Fra, qua c'è una bomba, sei una bomba. Vuol dire che già va bene questa antenna in gomma, dai, già funziona. Ma qual è quella che devi dare a me per la macchina? Gappa, gappa. Adesso sì, 9:10, dove sei arrivato? E ancora sono su discesone di campagna, dai. Da quando l'hanno regolato le stazionarie saranno una bomba, chissà. Ecco, no, stazionaria non ce n'è già, sono fatta assieme, ti ricordo. Conoscendo qua, sta dando via una bomba. Te lo ricordi che l'abbiamo regolato prima di andare a pescare? Ma guarda che le prendono quelle antenne. Cosa? Che le prendono quelle antenne, c'è sempre dei clienti di antenna, le prendono. Signori, conoscendo qua, è la voglia. Va bene, dai, così, ciao Claudio. Ciao Timo, hai capito Gianni che le prendono? Io sapevo che non ne facevano più di quelle fruste nere. E guarda bene su internet che ci sono, digita frusta nera e la trovi. Per comprare di un certo nuovo. Provano a sapersi. Io pensavo che non ne facessero più, che erano vecchie, di vecchia era e basta. Come la Sigma di Extra, la ricordo, io l'ho avuta quella lì. E pompava forte. Ed era il Vetrurice. L'ho avuta anch'io. L'ho avuta anch'io quella. Va bene, va bene. Dai, continuate, vi sto ascoltando. A più tardi. Ciao Franco, 9:10 sì, Franco. Ciao Claudio, fanno scala qua, dai. Quindi mi ascolti bene. Sì, sto utilizzando quell'antenna tua, là. Quella è la mitica. Guarda, quella non so se la trovi. O simile a quella ci sono le fruste nere in vendita. Ci sono, simile a quella non lo so, però quella è una delle prime. Claudia ci sono. 9:10 Radio 5. E anche dalle mie parti, un po' di più di 9:10, Sei un bel forte fra qua, Infatti sei più vicino a lui. Sei più vicino lì, capito? Lui da me è un bel lontano, un bel 9:10 va molto bene. Gappa, ma qua arriva un bel forte, cavolo. Adesso non so dove è arrivato, ma ruia. Andiamo bene, andiamo. Ma Marco Condor ha chiuso. Cosa? No, sto dicendo, se c'è Marco Condor ha chiuso, c'era poco fa. Dici, io ti ascolto Saturo. No. Cosa? Saturo chi? Io Gianni lo ascolto Saturo. No, io qua no. Come parla? Sia con questo che con l'altro, no? Cosa le dici? Non lo so cosa dici. Anche a me succedeva con un Franco l'altro giorno, che lo sentivo strano, molto tossato. Ma se tu ti avvicini troppo il microfono alla bocca, se stai usando quello da palmo. No, sto usando quello da tavolo, sto usando essa delta e ce l'ho lontano. Ce l'ho lontano quasi un braccio. Tu invece l'ho un bel forte, non so se stai usando troppo potente. Ci dice per tutti a manettone, grazie. Se vuoi venire un disinfatto, ho combattuto io. E io cosa ti credo che sto usando? io no. Devo dire la verità, no. Va bene, comunque gli sta andando bene tutti, non c'è problema. Adesso c'è il bip, Claudio. Sì, adesso c'è il bip. Almeno sei contento che c'è il bip. Perché dà fastidio, molto per questo. Io quando uso il Galaxy lascio il bip, Galaxy che c'era, ci deve distinguere gli altri radio, e allora un bip è malo già. A me mi piace troppo quello che ha fatto quei due ragazzi che si sono staccati dall'assidio, che hanno fatto quel Galaxy mega galattico con l'analizzato rispetto, tutto quanto, diciamo, si rubete nei catturubete, negli s***i. Non lo so se lo metteranno in vendita, sì, l'ho visto anch'io, ma già, se lo mettono in vendita cattura a un sacco di soldi, cioè, se è una cifra modesta posso anche farci un pensierino perché è molto bello veramente, però deve essere una cifra modesta, valida, non che cattura lo metta una cifra alta, per quella cifra io non la spendo sempre perché... Quindi quello che vuoi, tutte le modifiche, le migliorie, le cose, sempre un baracchino è, già, non è che... Vabbè, ma come diceva quello, anche lui che vuole la sua parte. Vabbè, anche lui che vuole la sua parte, io, come occhio, grazie a Dio, già ne ho altre del radio, meglio di quella, non è un problema. Quindi non è che c'è un problema. Sono abituato ad avere la radio che ci vuole l'occhio, come sarai abituato tu e tutti, però questo parlo di prezzo, per me si rimane sempre un baracchino, anche se è bello esteticamente, non c'è da dire niente al Galaxy, anche così senza fare nessuna miglioria, Galaxy è bellissimo come radio, quindi vabbè, vedremo. Ehi, hey, ha un attimino che mi ha sento secco. Dove sei arrivato, Franco? Adesso sono in corso. Via Reporto Torres. Fondo Scala. Sì, che tanto che per il prossimo è fatto arrivare a Fondo Scala. Ah. Io passo sotto casa, insomma, chi si attende ai suoi baracchino. Sì, non penso proprio. Ah sì, veramente via Reporto Torres. E adesso sì, Claudio. Via Reporto Torres sta prendendo la salita del vicino al cimitero. 9-5, sì. Buono. Ha pagato, però qua è a Fondo Scala, tutta a manetta, Ha pagato, vabbè, è normale lì, Per forza, cosa ti dica anch'io? E comunque quell'antenna viaggia alla grande, bene, K. Funziona bene, ma Luca c'è, Luca! Sì, sono qua, voglio cucire un capo, ho sfondato l'armadio, la bagassa, la vanna, sto prendendo la panina, Andrea, come sono accorto che ce l'ho sfondato l'affare? Voglio cucire un capo. Dici bucato? No, manco mari. Praticamente ha buttato la pallina dentro questo delle crocchette, no? Ma quindi va bene a prenderla. Era binere, io la mi sono alzato e gliel'ho data. E su cari, guarda, credimi, un giramento di balle. Non sa, ti fermo un secondo. Io hanno aumentato vicino al primo sifone. Va bene, K. Dai, riprendi anche le fragilate. K. L'hai voluto rugane, pedala. Non hai visto, però vivo, stasera ti portavo giù contro un gabbo. Addirittura nel muro non potevo asportare in terra. Oh, se ne andava lui aveva fatto male a te, E poi mi hai fatto un bel male. Devo stare più attento. Cucciolino. Dove sei arrivato, bra? Marco! K, allora. Via, per carità, va. Se ce ne sta con questa roba, vai, cazzo buca il cazzo. La stufa va di attesa, e non che... Ma io prenderò un naccio. Non ho bisogno di stufa, mi credi. Non ne ho proprio bisogno. Oh, beh. Non hai compreso, no? Ah, sì. E a chi non si vede? Si vede, si intendi. Com'è che si chiamava quel figlio? Come si chiamava quel film di Kevin Bacon? Aspetta un attimino, si chiama... Aria ferma. Aria ferma. Se chiama Tucca Tucca Tucca. Sì, hanno chiesto. Tucca Tucca. Viva la figa! Legare! Parla bene, maleducato. C'è niente che sta ascoltando. Parla bene, cuoco, male. Quando mai non mi entra l'uscita? Ma tu trovi da me in diretta, vedi da... fino a un tono in Narcis. Insomma, un montone in Narcis. Tu manda vero. Gesù Maria. Sono proprio meglio che ci di ti apri i denti. Torniamo un bel, Anto, un bel. Chiedi io se... se fa l'incontro. Brava. Sulla matta di ninfaria, è un bel caldo, me. E cos'è il caldo? Cos'è il buttato? Non l'hai visto, no? Che te andando al massimo questa cosa. Ma bella ti mezzo amplificatore mio, Anto. Che tu dati, siccome gli avvazzi, però non posso staccare che non arrivo a Burretti. Non ce l'hai l'amplificatore a cornicione? A balconcino, a cornicione. Io sono mettiamo a me, quello fa un bel caldo. Sta avvicinando. Sto qui un po' fuori. Allora, chi c'è? Avanti. Tanto c'è avanti. Che taglio mi ha dato qua, vai. Ah, da 20 da 23 MHz a 855 MHz. Senza antenna, e poi l'antenna va dappertutto. Ma che antenna le metti? Quella parabolica? No, col palo idraulico esco. E allora quella va bene. Ho trovato la foto su WhatsApp. E adesso vado a vedere. Non ce l'ho qua WhatsApp. Oh, Giulia. Chi sa piglia pure antenna zero, pigliami. Gesù Maria, manna, Gesù, cosa da pazzi qua? Cosa da pazzi? Cazzo che bullying è! E infatti, vale, può andare una letterina, che cosa? Gesù, ma quando si muove, ma si muove, Gesù, ma tu stai se l'hai fatti i bottoncini di gusto non l'avevi fatto a camminare. Visto, madre natura, Gai esce su conto. E cosa vuoi farlo? Cazzo, che fatto che quasi mai un capo, una rammara. Dunque, coso, dove arriva Crizia? Crizia c'è ancora. Crizia è cuoco, male. Cappa. E ce ne è tutto chissà cosa, vai, mamma mia. Chiama, chiama, frate, chiama. Niente male, dai, bel balconcino. Zucca, se c'era arrivati i bottoncini di Gucci. Una cosa che ho fatto, dice. Niente male, che se no, tu a Rigaranni, anzi a Pindini. Ah, tu ti ha bruciato, mi. Che hai bruciato? Tu, cazzo, un rumore, cazzo, mi arriva quello attaccato, la saltatrice. Però Cla. Ma chi è? Antonio. Antonio? Antonio, cosa si comprendi? Niente. No, ha fatto così, non ha più compreso una cosa. Ha fatto così cosa? Io c'ho Gozio. Adesso sta andando. Che Gozio cosa? Fa vedere in italiano. No, che c'è. Me ne sono accorto pure io. Come ho cambiato, forse era fredda. Anto, questi cambi a me non mi piacciono per niente, sto pensando. Proprio per niente mi piacciono questi cambi, che vidi volanti, che vai, stacchi una parte, stacchi all'altra. Non ci siamo, Anto, deciditi se devi usare quella o se devi usare il baracchino. Deciditi, però a me, a chi ti vuoi confermare, anche l'altra volta ti ho sentito scendo male io. Capito? Questo stacca e attacca al PL, lo rovinate, l'ho tanti anni l'altra volta, si rovina. Perché di cazzo facete tutto? Si rovina, il PL deve rimanere attaccato, compratevi un commutatore d'antenna serio e comodi, una radio e l'altra. No, vabbè, non ce n'è stazionaria però, sicuramente come era spenta, capito? Ora. Tanto la dito di San Radio spenta o accesa non ha nessun problema, proprio nessun problema, ha fatto dire a uno che è 30 anni che li usa con le radio. Questa cosa che attacchi, pulita, spacchi, c'hai due fili lì per legnare, due cose, e così in bagno attacchi l'ubiella di... vabbè, ho fatto un commutatore, cazzo, tu, commutatore 6, ho buttato 30 euro, ti prendi di un'altra cosa e ti fai un impianto come Cristiano, è troppo volante sei lì tu, ricordati che c'è una HF sotto il culo anche, e se li facci, ho problemi, dormi, te la giunto se vuoi, come fa una righice radio. No, il problema è questo, Cla. Io non posso sbagliare mai, perché cosa ce l'ho attaccato qua? E l'altra roba ce l'ho attaccata dall'altra parte, quindi non posso mai sbagliare, da attacca un PL e trasferirlo là, il PL non c'ha niente, l'ho guardato e non va nulla. Quindi ogni tanto questa cosa qua lo fa, la prima accensione notato, la chiave anche il PL attaccato. Lo fa prima di sera poi bassa, non so perché. Ma quella radio HF che c'hai a prima accensione? No, tutto. No. Nel modo più assoluto. Io quella radio lì l'ho avuta qua e non ha mai fatto dei problemi. Mai. Ma ti dico mai nessun problema. Quindi stai attento a questi passaggi che fai. No, perché adesso ho toccato il microfono, e l'altro c'è un microfono, può essere anche lui mi un po' rompiscatole, perché ogni tanto mi fa qualche difettuccio, capito, già lo sai. Può essere anche lui, perché adesso io poco fa, quando ho sentito qualcosa, mi sono capizzato, ho toccato le cose e non ho fatto più. Allora il microfono, ma non mi dire che la radio, perché quella radio, prima di averla tu, già lo sai, era lui, eccezionale quella radio, capito? Quindi però fai attento a questi passaggi che fai, attacca bene il PL, stringi il PL, poi accendi la radio qualche secondo, aspetta qualche secondo e poi entri. No, non attaccare il PL, gira la radio, sta e parlate, cioè quella radio hanno bisogno un attimino di calma, non sono giocattoli. Già lo so, infatti era spento, era, perché io lo spengo. Ma si sa fare, ma si sicura, ma ogni tanto rubate. Mi accorgo che si spegne un po' la spia qua, capito? Ma adesso il microfono sicuramente dà qualche difetto. Se si spegne la spia rossa? Eia! Il microfono vuole controllare, allora. Quello è il segnale del PTP. Se c'avevi la spia rossa spenta, allora è il microfono. Però stai attenta, tu quando fai questi cambi, che la radio la spegni, attacchi il PL, lo stringi bene, accendi la radio, vai, ti via una bassa leva, alla voi torri e ti vuole modulare. Non accendere la radio e schiacciare la portante subito, tanto mi fai danno questa radio. L'unico per esperienza vissuta, mi fai danno. Già lo so, devi andare piano, devi aspettare un attimo prima di modulare e via. Vabbè, adesso già va bene. Stazionarie sono normali, aspetta che accendo la luce. Sì, già andava, là. No, segnale il tuo, la modulazione è la tua, non ti sto dicendo quello, però andateci piano con quelle radio, lo dico per esperienza, perché noi dice radio, quindi sono a condensatore, quando è fredda, che tu l'accendi e vai un attimino, dalle il tempo di assestarsi, condensatori, due minuti, bastano due minuti, non dico che devi agitare come 340 a 3 ore, quello basta due secondi, due minuti, l'accendi, un attimino di bianco, vai di una bassa leva, vuoi dove ti vuoi modulare, dai il tempo un attimino che si accesti, non entrare mai così di colpo, perché quelle radio già ci hanno l'età sua, queste radio, perché ce l'ho anche io, già ci hanno l'età loro, io le ho le lei, le accendo un attimino, capito, c'ho il commutatore d'antenna, PL non è stacco, quindi bisogna stare molto attenti. Bisogna che me lo piglia un commutatore, eh. Ma non della ZG, ma lo dici a Luca, che lui su internet ci bazzica spesso, eh? E te lo fai comprare un coso. Un commutatore, 30 euro, un commutatore buono, a due vie, senza bonini, 4, zinco, a due vie, degli buoni, capito, non dici della ZG. Lo compri, te lo attacchi lì al muro, con due tassellini, il buono per appena silicone, lo lasci asciugare al muro, capito? l'antenna e un capo alla CAF e un capo al baracchino. E tu poi va tic e tac e non fai tacchendo nulla. Già lo so. Il problema è che, come si dice, io ce l'avevo uno bello robusto della Proxel, babbo l'ha dato, se no già ce l'avevo il commutatore. Oh, dimmi le marche, ce ne sono tante, dimmi, costa anche, ragazzi, questa è a... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 antenne. Dimmi la marca, cra. Guarda, c'è quelle della OPEX che vanno benino, mezzo cani, 15 euro, 17 euro, 20 euro. A due vie, che è fatto tipo quadrato, non è quadrato, è esagonale. OPEX, mi hai detto. Sì, della OPEX, quelli vanno benino, hanno comprati anche Fabrizio un po' di quelli. Proxel, io l'avevo preso. No, anche della Proxel ci sono. Un computatore a due che non c'è della ZG, se non metti anche uguale risolvi il problema e tu la radio non la devi neanche spegnere, capito? Perché se sei sul canale 10 e commuti al baracchino, basta che dal canale 10 tu lo metti per dire al canale 40, abbassi il volume anche se si muove appena lo smette, non le fa niente, non c'è bisogno di spegnere la radio, capito? Allora c'è questo Falcos CO commutatore coassiale, due vie, 30 euro costa. Preso da Gitto, 30 euro, 25 euro, non fa cosa, è buono, quello nero è. No, blu. Blu, buono, lo facevano anche nero, buono. Un commutatore ci vuole altro, dammi retta, chi dica attacca il sacco, a me no, blu. Io non sono d'accordo a fare sempre attaccando il PL, perché il PL c'è un punto di saldatura, se manda in corto il PL e chi ce l'ha portato, gatto, è facile a radio. Foto, anche Antonio se la mando, aspetta. Buonasera a tutti. Ciao Fra, dove sei a casa? Sono arrivato adesso, è in campagna a sistemare, cazzo, per carità, lavare il cane, cazzo, mi hanno portato su. Me l'hanno mandato da poco, bello come commutatore. Sì, Arturo, non fa cosa, fa belle cose, che non te lo prendi così. Fai un sacrificio, te lo prendi, c'è un bel commutatore, e commuti il baracchino e la KF, e così non hai problemi. Cappa, l'unica cosa è che io quando esco, quando non ci sono a casa, non voglio tenere l'antenna attaccata, assolutamente. Se la stacchi, cos'è? L'antenna la lasci attaccata al commutatore e dalle radio stacchi il PL, cos'è? Non la mantessi cosa? Presa quella cosa, Presa? Cappa, 150 col cavo e tutto. E c'è l'interruttorino che è un po' mangiucchiato, ma va bene lo stesso, non fa niente. Ma l'interruttore di davanti o quello di dietro? Quello di davanti. La cromatura appena cromatura ha perso, ma boh, non mi interessa. Ma che cosa era attendere con le denti? Il mio nuovo, attivo 50. Nuovo, perfetto. Tutte le cromature, tutte le scritte, tutto, non c'ha, bello, nuovo, infatti è attaccato, stanno non quello, esce, col cellulare 140. Attivo 50, la colonnina, la metà tutta la linea, ciò. E vabbè, te lo giambi, guarda la misura, vai da Fusaro e te lo prendi nuovo, il tastino. Infatti, no, la colonnina ce l'ho adesso, c'ho la colonnina, adesso mi dovrebbe arrivare mercoledì, o martedì o mercoledì arriva. Perché arrivi da rimane? La spedita giovedì è arrivato sabato mattina. Sono anche ritirato, perché io c'ho il, non mi faccio venire qua, capito? C'ho il fermo posto, quindi sono andato fermo agenzia, sono anche ritirato. Il campanello è completo, dai. C'è colonnina, la T250 va bene così. No, la linea completa. Anche c'ho 300 euro di radio.